Questa storia comincia da un lotto di terreno non edificato in via Ilio Barontini, lungo il confine orientale del rione Cirenaica, prima periferia est di Bologna. L'avamposto della Cirenaica è, o era, la stazione ferroviaria che i vecchi bolognesi chiamano ancora la Veneta, sebbene i treni di quella linea non vadano in Veneto, ma a Porto Maggiore, provincia di Ferrara, dove non c'è più alcun porto, né maggiore né minore, ma corre un altro confine sfuggente, quello delle valli del Mezzano, antiche paludi bonificate negli anni 50 del XX secolo. Ne sono sopravvissuti scampoli, vedute da quadro metafisico o da prima serie di True Detective. All'inizio del nuovo secolo, anche i dintorni della Veneta e il confine ovest della Cirenaica hanno subito una bonifica, ma insensata, tanto che potremmo chiamarla malifica. Grandi speculazioni edilizie, spazi vuoti riempiti di cemento e asfalto, nuovi palazzoni eretti in tempi da Guinness dei primati, con il loro corredo di finte piazzette e alberelli autistici. La stazione, in poco tempo, è stata inglobata, interrata, sottratta al paesaggio. Quei palazzoni oggi sono mezzi vuoti perché nel frattempo si è sgonfiata la bolla. Si sente ancora il psss come di polmone forato. Questa storia comincia, si diceva, da un lotto di terreno sopravvissuto alle speculazioni tra i numeri civici 13 e 17 di via Barontini, uno scampolo anche quello, come le valdette del Basso Ferrarese, e dalla battaglia degli abitanti del rione per farne un giardino pubblico. Oggi il giardino c'è e porta il nome di un ferroviere anarchico, Lorenzo Giusti, ma la battaglia non è finita, perché un giardino va fatto vivere. Dall'esigenza di farlo vivere è nata un'associazione, Spazi Aperti. Dall'incontro di Spazi Aperti con altri singoli gruppi è partito tutto il resto. Ma no, a volerla dire tutta, questa storia comincia molto prima, in una serata del 1949, quando il Consiglio Comunale di Bologna decide di cambiare i nomi alle vie del rione. I nomi di prima, come quello del rione stesso, celebravano le conquiste coloniali dell'Italia giolittiana e fascista. La quarta sponda, la Libia invasa nel 1911, via Tripoli, via Bengasi, via Derna. I nomi di poi, invece, ricordano caduti partigiani, via Paolo Fabbri, via Giuseppe Bentivogli, via Sante Vincenzi, perché la Cirenaica era stata luogo di resistenza, luogo di solidarietà, di covi, di case sicure e arsenali nascosti, e c'era persino una tipografia clandestina. Solo via Libia mantenne il nome coloniale, anzi colonialista. Aspettate, però, c'era anche un'altra via, più antica del rione stesso. Si chiamava via Savena, perché fino alla seconda metà del Settecento il fiume Savena scorreva lì accanto. La catena di eventi che portò a cambiare anche quel nome non ha un inizio preciso. In fondo, ogni origine è un mito. Si può sempre andare più indietro. Però c'è un momento chiave, una data precisa, 22 gennaio 1951. Quel giorno, dalle parti di Scandicci, una corriera investì la Fiat 1100 su cui viaggiava il senatore comunista Ilio Barontini, che morì sul colpo. Barontini fu uno dei protagonisti della guerra partigiana a Bologna. Durante la clandestinità si faceva chiamare Dario e aveva come base un appartamento nel cuore della Cirenaica, in via Bengasi 2. Per questo, dal 1952, l'antica via Savena porta il suo nome. Poi ci sarebbe la storia del VAG 61, acronimo che sta per Via Azzo Gardino 61, che è in tutt'altra zona della città. Ma se risaliamo tutti i fili facciamo notte, e mica una volta sola. L'importante è dire che Resistenza in Cirenaica nasce all'incrocio di tanti percorsi. Resistenza in Cirenaica. È un cantiere culturale permanente che vuole fare del rione Cirenaica un laboratorio di memoria storica, unificazione delle resistenze, antirazzismo, solidarietà migranti e profughi, ritorno del rimosso coloniale, antidoti ai veleni della guerra e del terrore. Vogliamo liberarci di ogni sguardo italocentrico e anche eurocentrico. In Africa, la resistenza antifascista cominciò molto prima della Seconda Guerra Mondiale. La resistenza libica, prima di essere stroncata definitivamente nel 1931, durò la bellezza di 20 anni. Contro l'Italia liberale, dal 1911 al 1922, contro quella fascista, dal 1923 al 1931. Dal 1936 al 1941 la resistenza etiope mantenne ingovernabile l'Etiopia occupata dai fascisti, finché, con l'aiuto degli alleati, non vinse la propria battaglia mandando in fiamme l'impero di cartone di Mussolini. Le resistenze europee andrebbero lette come parte di un ciclo più lungo, inserite in un contesto planetario, quello della lotta anticoloniale. Si tratta di valorizzare il rovescio del discorso sul colonialismo di Messeser. Se il progetto hitleriano all'osso consiste nell'aver applicato all'Europa metodi colonialistici che fino a quel momento avevano subito solo gli arabi d'Algeria, i coolies dell'India e i negri dell'Africa, allora la resistenza al nazifascismo fu anche una guerra anticoloniale nel cuore d'Europa. Si può e si deve sprovincializzare e creolizzare la narrazione delle guerre partigiane, e i doppi nomi delle vie della Cirenaica forniscono uno spunto narrativo utilissimo. È così che dopo un lavoro di mesi si è arrivati alla giornata del 27 settembre 2015. Una giornata di musiche, racconti, camminate, proiezioni per disseppellire le storie di chi resistette ai fascismi, ai colonialismi, all'imperialismo tedesco e a quello italiano in Africa e nei Balcani. Se solo una settimana prima ci avessero detto che centinaia e centinaia di persone avrebbero affollato il rione Cirenaica per guardare insieme le targhe coi nomi delle vie e ascoltare qualcosa come 10 ore di storie che collegano il colonialismo italiano in Africa con un attentato avvenuto a Tripoli 2 giorni prima, con le attuali politiche dell'ENI nel delta del Niger e con la strage di Lampedusa del 3 ottobre 2013. Storie che mettono insieme resistenza al colonialismo e guerra partigiana contro il nazifascismo in Europa. E ancora storie sullo sviluppo del rione, la sua edilizia popolare. Beh, ci avremmo creduto a fatica, perché ci aspettavamo tanta gente, ma non così tanta. Se ci avessero detto che l'intitolazione dal basso di Via Libia alla partigiana Vinka Kitarović detta Lina avrebbe suscitato lacrime di commozione e abbracci tra estranei ai bordi di un mega capannello di quasi 300 persone. Se ci avessero detto che prima ancora di sapere che avremmo cambiato il nome a Via Libia, altre persone avrebbero cambiato il nome di Via Edmondo De Amicis intitolandola alla staffetta partigiana Tolmina Guazzaloca, nome di battaglia giuliana. Se ci avessero detto che una folla stipata nel giardino pubblico Lorenzo Giusti avrebbe tributato un'ovazione alla memoria del combattente libico Omar al-Mukhtar. Se ci avessero detto che alle 10 di sera, dopo un'intera giornata, a innalzare la targa a Lorenzo Giusti saremmo stati ancora più di 100. È stata una grande giornata e questo libro intende documentarla. E non è che l'inizio.